Pompeo, Pompeo! Pompeo, tienimi stretta la mano, tienimi stretta la mano, Pompeo! Avanti, su, Pompeo! Tienimi stretta la mano, qua! No, no, no, non chiudere gli occhi, non chiudiamola quella cazzo di ambulanza, per favore! Non chiudere gli occhi, Pompeo! Non li chiudere, non li chiudere, non li chiudere, cazzo, è finita! Si chiude gli occhi, è finita, avanti! Chiama quella cazzo di ambulanza, fai presto! Avanti, avanti, Pompeo! Stringimi la mano, ascolta, ascolta la mia voce, ascoltami la voce! Ti ricordi, ce ne dobbiamo andare a Bologna, eh? Ti ricordi, dai! No, no, no, no, non chiudere, non chiudere! Ascoltami, ascolta la mia voce! Ascolta la mia voce! Ricordi, ce l'andiamo a Bologna. Bologna è pieno di banca bestia, eh? Dai, ci scriviamo al Dams a Bologna, poi da lì ce ne andiamo fino a Londra, poi non lo so. Ce ne possiamo andare a New York, per favore, per favore. Non chiudere gli occhi, non li chiudere, non li chiudere. Chiamate quella cazzo d'ambulanza, per favore. Arriviamo alla sera che vi stavo raccontando. Vennero i miei amici a prendermi e chiesero a Jackie dove era casa mia. Chi tu siete? San Mangrazio domandò. Siamo venuti a cercare un nostro amico, si chiama Oscar De Summa, abita in via Giotto, accanto alla scuola elementare, di fronte alla guardia medica. Pittoresco il sud, tutto il sud del mondo. Ma questo non significa che le tragedie non succedano. Armato! Tocca sta passa la muerto! Lo spettacolo Diario di Provincia di e con Oscar De Summa. Lo spettacolo Per troppa vita che ho nel sangue, la breve vita e la grande poesia di Antonia Pozzi. Drammaturgia e regia di Anna Ceravolo. Con Eleonora Bresciani, Anna Ceravolo, Domitilla Colombo. Al violino Francesco Bianchini. Per troppa vita che ho nel sangue. La breve vita e la grande poesia di Antonia Pozzi. Drammaturgia e regia di Anna Ceravolo. Con Eleonora Bresciani, Anna Ceravolo, Domitilla Colombo. Al violino Francesco Bianchini. Rabbiosa e scema esasperazione delle mie unghie rosicchiate e queste parole dannate che graffiano la carta con furiosa ostinazione. Invece del compito che lunedì dovrei portare, rimaner qui a farneticare, a dondolarmi sull'altalena del passato, idiotamente con torpore assonnato. Stimolati certi sobbalzi di inquietudine stizzosa da ogni ora che scocca ed una voglia sciocca di affrettarmi in melensaggine lacrimosa. L'incubo della lezione che avrò fra un quarto d'ora, l'oppressione di questo giorno snocciolato ansiosamente, la visione di me stessa che mi percuote desolatamente, una bambina che bamboleggerà sempre, come ha fatto finora. Eccola Antonia, a 17 anni, che si rosicchia le unghie tutta presa dalla veemenza dello scrivere. Divisa tra un passato in cui si culla ed un futuro verso cui scalpita. Non ha nessuna indulgenza verso se stessa, anzi, l'obiettivo che si punta addosso è implacabile. Si rimprovera di fantasticare mentre dovrebbe fare. Antonia Pozzi nasce a Milano il 13 febbraio 1912. Questo è suo padre, Roberto Pozzi, un avvocato di grido nella Milano degli anni 20 e 30. Qui è ritratto con la divisa di ufficiale di artiglieria indossata durante la Prima Guerra Mondiale. Il viso ha dei tratti decisi che esprimono forza di volontà, coraggio ed autoritarismo. Questa è sua madre, Lina Cavagna. Ha uno sguardo sognante e la bocca leggermente dischiusa in un pallido sorriso. Questa foto è del 1911, anno del matrimonio con Roberto. E chissà, forse questo vestito a vita alta, arricciato, è per via dell'attesa di Antonia, l'unica figlia. Lina Cavagna appartiene al casato dei Cavagna San Giuliani Conti di Gualdana, esponenti di quella nobiltà terriera che non si era data a sperperi, ma aveva saputo amministrare il patrimonio con oculatezza. La madre di Lina, Maria Gramignola, è nipote di Tommaso Grossi, donna eccezionale. Con lei Antonia vivrà un rapporto privilegiato. Eccole qui, nella stessa foto. E ancora insieme nel 34. A 15 anni Antonia scrive alla nonna: cara la mia nena. Era questo il soprannome che Antonia le aveva dato sin da bambina. Di ritorno da Torino ho ritirato gli ingrandimenti delle fotografie. Sai che guardando quella dove siamo io e te, tutti dal primo all'ultimo dicono che ci somigliamo moltissimo. Io sono felice di sentir dire così, cara la mia cara tesorona d'oro, che sento così fisicamente e spiritualmente vicina, proprio fatta dello stesso sangue, non so spiegarti, affine e unita a me come nessun'altra persona al mondo, neanche i miei genitori. Non c'è più nessuno a cui chiedere quale fu la prima casa dei Pozzi. Questa, di via Mascheroni, porta una targa di pietra, 1914, e qui abitò Antonia da allora, probabilmente, fino alla sua morte, il 3 dicembre 1938. È una casa nel cuore di quella che era all'epoca la Milano che contava, dove ricca borghesia industriale ed aristocrazia dividevano gli stessi salotti. L'infanzia di Antonia deve essere stata abbastanza spensierata, seppure inamidata dai riti formali che la famiglia ossequiava. Se non fosse stata immortalata sotto la bandiera, non sembrerebbe così vestita una ragazzina dei nostri giorni? Antonia frequenta i primi anni delle elementari qui, presso l'Istituto delle Marcelline, in piazza Tommaseo, poco lontano da casa. Passa quindi a frequentare le scuole di via Ruffini, che slargano sulla facciata di Santa Maria delle Grazie. L'insegna dice Anno Domini 1909. Ai tempi di Antonia doveva essere nuova di zecca. Tra i primi scritti rimasti di Antonia vi è una pagina di diario datata Natale 1926. Sono anni ancora sereni, eppure, quando sente la vita traboccarle dentro, è il momento stesso in cui un senso oscuro di precarietà si insinua nel suo animo. È passato anche questo Natale, giorno lieto, giorno di rimpianto per quelli passati. Sentimento strano, ingiusto in me, che sono ancora quasi bambina, che dovrei guardare solo all'avvenire fiduciosa, serena. La vita interiore di Antonia è vulcanica e intatta. La fatica della vita non l'ha ancora sciupata. A 14 anni scrive: ho paura e non so di che. Del tempo ho paura, del tempo che fugge così in fretta. Seppure alcunché di doloroso o di violento è passato nella mia vita tranquilla, io ho vissuto questa vita intensamente, godendo quasi della mia stessa sofferenza, esaltante per la gioia di viver dentro di me, di sentirmi dentro, chiusa come in uno scrigno, un'anima palpitante, ridente, nostalgica, appassionata. E forse per questa piena di sentimenti, per cui in una giornata soffro e godo ciò che apparentemente si può soffrire e godere in tutta un'esistenza, che rimpiango il passato, che adoro il presente, che non desidero l'avvenire, perché sono contenta di essere io, con i miei difetti e le mie poche virtù, perché non so se in avvenire potrò essere ancora così. È importante capire quali slanci percorrevano l'animo di Antonia, quanta vita le voleva scoppiare dal cuore e che invece le deflagrò dentro, distruggendola. Nel 1927 si iscrive al liceo Manzoni, scuola illustre ancora oggi, tra Sant'Ambrogio e il Carrobbio. È più impegnativo del ginnasio, ma i voti del secondo bimestre, come scrive alla nena, sono assai soddisfacenti. Ho 8 in italiano, 8 in storia e storia naturale, 8 in matematica, 7 in fisica e 7 in filosofia e, gloria eccelsa e meritata, 8, 7, 8 in latino e 7, 8 in greco. Meritata, perché il nostro caro professore di greco e latino, nonché darci bastantemente da fare, ci spinge poi talmente a studiare per conto nostro e filosofia ed estetiche, tragedie antiche e tante altre bellissime cose, che ho paura di star diventando anch'io un topo di biblioteca o una mummia filosofante come lui. Milano, 20 aprile 1927. È la prima volta che Antonia scrive di Antonio Maria Cervi. Il topo di biblioteca, la mummia filosofante, doveva essere l'amore, grandissimo e sbagliato, di Antonia. Antonio Maria Cervi ha 18 anni più della sua allieva. Non è povero, ma non può competere né per ceto né per censo con i Pozzi. Ha una cultura immensa e la capacità di accendere la passione per la conoscenza nei suoi allievi. Antonia, in un primo momento, forse si infatua del professore che sa entusiasmare gli studenti e che riesce a stimolarli ben oltre i contenuti dei programmi scolastici. Ma poi se ne innamora in maniera adulta. Rispetto all'ambiente familiare austero, formale, l'impegno trascinante di Cervi, ben oltre i meri doveri della didattica, non poteva lasciare l'impetuosa Antonia indifferente. Cervi viene descritto come un uomo probo e onesto, un galantuomo, insomma. Alle avances di Antonia è probabile che sulle prime egli abbia risposto con un certo imbarazzo. Forse Antonia aveva frainteso un eventuale debole del professore per lei, determinato semplicemente dal fatto che lei era una studentessa brillante. A scoraggiare decisamente un Cervi messo in crisi dall'intraprendenza della sua allieva sarà poi la ferma opposizione del padre di Antonia a questo amore. Opposizione che va dritta per vie di fatto, poiché l'anno successivo, il 1928, riesce a procurare il trasferimento di Cervi in un liceo di Roma. In quegli stessi mesi viene scattata questa foto, a Pasturro, in Valsassina, ai piedi della Grigna, dove i Pozzi hanno una villa. Qui padre e figlia sono andati a giocare a tennis. Lui sembra impacciato. Lei appare goffa, così, sui due piedi, il sorriso forzato e la posa affettuosa che stride in un insieme di rigidità. Ma perché Roberto Pozzi rifiutò Cervi? Comprensibilmente per via della forte differenza di età. Lei all'epoca aveva solo 17 anni, anche se negli anni 30 non era così inusuale sposarsi giovanissime con uomini molto più grandi. Poi vi era il divario economico e sociale. Vi era ancora il fatto che Cervi era nato a Sassari, quindi era un meridionale. E i meridionali, si sa, fino a una trentina d'anni fa, erano tutti terroni. Vi era che Antonia era l'unica figlia e l'inconscia gelosia che un padre può nutrire per una figlia è insondabile. A lui, Roberto Pozzi, figlio di una coppia di insegnanti, era riuscita la scalata sociale grazie al matrimonio con una nobildonna. Ma l'uomo che sua figlia amava non poteva permettere di fare lo stesso. Invece a Cervi, come alla stessa Antonia, la mondanità, il lusso, non facevano né caldo né freddo. Cervi incitava Antonia a migliorare, la proiettava in avanti. Il padre invece la tratteneva. In una lettera alla nena, Antonia descrive Cervi con queste parole. Una gran fiamma dietro una grata di nervi, un'anima purissima, anelante a sempre maggior purezza, destinata purtroppo a inaridirsi sola, in una sete inesauribile di sapere, di perfezione, di luce. Con la parola e con l'esempio, egli mi ha dato uno scopo e una fede, mi ha insegnato a guardare più in alto e più lontano, mi ha additato la via per diventare più buona. Mentre così parla del padre, con rispetto, ma senza nascondere come vorrebbe scappargli via. Ricordo un pomeriggio di settembre, sul Montello, io ancora una bambina, col trecciolino smilzo ed un prurito, di pazze corse su per le ginocchia. Mio padre, rannicchiato dentro un andito, scavato in un rialzo del terreno, mi additava attraverso una fessura il piave e le colline e mi parlava della guerra, di sé e dei suoi soldati. Nell'ombra l'erba gelida affilata mi sfiorava i polpacci sottoterra, le radici succhiavano forse ancora qualche goccia di sangue, ma io ardevo dal desiderio di scattare fuori nell'invadente sole per raccogliere un pugnetto di more da uno siepe. Questa è la foto più cara a Cervi ed è davvero uno dei più bei ritratti di Antonia. Ma è come se nel suo sguardo vibrasse un silenzioso rimprovero. La lontananza non affievolisce il sentimento per Antonello, come lei lo chiamava teneramente. Una fitta corrispondenza e una serie di viaggi continuano ad alimentarlo. Ma forse è più Antonia a voler tener vivo questo amore senza fortuna. Con un corteggiamento serratissimo che si nutriva delle parole straordinarie che lei gli dedicava. Non deve essere stato semplice dire di no ad una donna giovane, intelligentissima e follemente innamorata. Ma innamorata da fare paura. Cervi alla fine si ritira in buon ordine, convinto che sia il male minore. E resterà solo tutta la vita. Non incontrerà mai più una donna come Antonia, che avrebbe voluto dargli un figlio e chiamarlo Annunzio, come il fratello di Cervi morto in guerra. E questo figlio non nato, questo bambino finto, ritorna di continuo, come un refrain doloroso e inafferrabile. Da quando io dissi, il bimbo avrà il nome del tuo fratello morto. Era una sera d'ottobre, buia, sotto grandi alberi, senza vederci in viso. Egli fu vivo. L'unica spiga di due zolle confuse eri tu, lo stelo della nostra innocenza sotto il sole. Ma sei rimasto laggiù, con i morti, con i non nati, con le acque sepolte. Tu mi dicevi, voglio che il bambino abbia gli occhi come i tuoi. Io mi toccavo le palpebre, fissavo il cielo per sentirmi lo sguardo diventare più azzurro. Tu mi dicevi, voglio per questo che tu non pianga. Vedi? Questo è il mio bambino. Finto. Gli ho fatto il vestitino all'uncinetto con la lana bianca. Dice anche, mamma, sì, se lo rovesci sopra il dorso. Dammelo qui in braccio Per un pochino. Ecco, hai sentito come ha detto? Mamma, questo è il mio bambino. Vedi, il mio bambino finto. Se chiudo gli occhi a pensare, quale sarà il mio domani? Vedo una larga strada che sale dal cuore di una città sconosciuta verso gli alberi alti d'un antico giardino. Oggi io cammino senza piangere più e non mi importa. Non mi importa che l'anima non abbia nulla di suo, nemmeno più il dolore. Oggi tutta la vita mi pulsa nel palmo d'una mano, mi trema in cima alle dita che serrano teneramente la manina della mia creatura. Fino a non potersi tollerare, Antonia, madre di un figlio non di Antonello, gli scrive nel 1932. Non lo sai che io sono pronta a morire piuttosto che essere di un altro uomo. Non lo sai che ribrezzo mi faccio, carne e anima, se penso che potrei dare vita ad un figlio non tuo. O a volere, piuttosto, che Cervi compia il progetto di quel figlio con un'altra donna. Ed è tanta la pace ch'io dica, oh, possa tu incontrare la donna che ti ridia la creatura che abbiamo sognata e che è morta. Il padre e Cervi, dunque, sono i primi a dare inizio al processo di sgretolamento delle sicurezze di Antonia. Forse il veto del padre su Cervi è il primo no categorico che una ragazzina senz'altro viziata come poteva essere lei incontra. Eppure, le delusioni che i due uomini le danno, il padre troppo autoritario, Cervi troppo rinunciatario, non fanno sfuggire ad Antonia né accuse, né rabbia, né ribellione. Almeno, stando a quello che riportano i suoi scritti. Perché non tutto è arrivato fino a noi. Vi è il sospetto che alcuni materiali siano stati distrutti volontariamente, anche se un'ipotesi da non scartare è che siano andati persi per incuria dopo la morte di Roberto Pozzi. In una lettera del 30, Antonia scrive a Cervi. Io non t'ho mai parlato del mio papà, Antonello, ma è tanto buono, sai? Anche se non vive come te, anche se la vita gli ha imposto una professione diversa da quella per la quale egli era nato. È un'anima immensamente forte, entusiasta, onesta, di un'infinita rettitudine. Io ho tante colpe verso di lui. Non gli ho mai voluto abbastanza bene. Ne ho sempre avuto terribilmente paura. Anche dagli stralci delle lettere successive emerge un'Antonia che si sente in difetto, responsabile per tutti. Scrive ancora a Cervi. Forse anche l'umiliazione di ritornare dai miei in veste di chi prega ti pesa troppo. E senza rendertene ragione, cerchi di sfuggire ad un sacrificio di cui io non valgo la pena. O forse semplicemente io non ti piaccio più come una volta. Non sono più il tuo giaggiolo, la tua primavera. Mi trovi brutta e vecchia, come sono in realtà. E la mia voce sgarbata ti irrita. I miei occhi rossi ti fanno dispetto e ribrezzo. E qui ha solo 20 anni. E nel 33. Di nuovo mio padre minacciava di venirti a cercare a Roma, di sfidarti a duello e tante mai altre cose spaventose. Ed io vi credetti, povera, stupida bambina. E fu per paura soltanto che pensai di cedere. Parole, parole, parole, tante parole grandi e belle per coprire tante meschinità ignobili. E tutti a suggerirmele le belle parole, ad ubriacarmi di parole. E con queste parole concluderà l'ultima lettera indirizzata ad Antonello. Perdonami tutti i miei torti, se puoi. Io vorrei che tu potessi avere tutto il bene che io non t'ho dato. Vorrei che il Signore ti benedicesse, ti proteggesse per sempre. Sento di potermi ancora affermare con purezza e sicurezza d'anima. La tua, Antonia. Il pensiero della morte, intanto, si insinua come un tarlo, si fa martellante, insidioso, e non basta la delusione amorosa a giustificarlo. La morte brutta e coraggiosa che uno si dà. I Pozzi la conoscevano. Nel 1893 il padre di Roberto Pozzi, Angelo, si toglie la vita. Roberto ha solo 11 anni. 12 anni dopo, nel 1905, si suicida la sorella Emma, di appena 17 anni. Vogliamo dire allora che vi era un errore nel patrimonio genetico, una malattia del vivere che si trasmette col sangue, in parte. Ma neanche queste considerazioni spiegheranno completamente il gesto che compirà anche Antonia. Antonia sentiva tutto troppo. Viveva le sue emozioni con eccessiva intensità, con una golosità, uno struggimento, una passione che solo gli animi più sensibili, quelli chiamati a creare grandi cose, possono condividere. Antonia chiama la morte con la stessa passione con cui chiama la vita. Vedi la falda erbosa da cui balza questo zampillo estatico di rupi. Somiglia a un camposanto sconfinato con le sue pietre bianche. Io mi vorrei tuffare a capofitto nella fluidità vertiginosa, vorrei piombare sopra un duro masso e sradicarlo e stritolarlo io con le mie mani scarne. Strappare gli vorrei, siccome a croce di cimitero, una parola sola che mi desse la luce, e poi berrei a golate gioiose il sangue mio. Sulle vette, quando la brezza che ci sfiora è l'alito di vita arcane riarsi di purezza, ed il sole è un amore che consuma, e a mezza rupe migrano le nubi sopra le valli, rivelando a squarci, con riflessi di sogno, la pensosa nudità della terra. Allora bello sopra un masso schiantarsi, e luminosa certa vita la morte, se non mente chi dice che qui Dio non è lontano. Ho gridato di gioia nel tramonto. Cercavo i ciclamini fra i rovai. Ero salita ai piedi di una roccia, gonfia e rugosa, rotta di cespugli. Ho gridato di gioia nel discendere. Ho adorato la forza irta e selvaggia che fa le mie ginocchia avide al balzo, la forza ignota e vergine che tende me come un arco nella corsa certa. Lontano, in un triangolo di verde, il sole s'attardava, avrei voluto scattare in uno slancio a quella luce e sdraiarmi nel sole e denudarmi perché il morente Dio s'abbeverasse del mio sangue, poi restare a notte stesa nel prato con le vene vuote, le stelle a lapidare in bestialite, la mia carne disseccata, morta. Ma col tempo l'idea della morte muta in pensiero malinconico, quasi dolce. Morire, dormire, forse sognare. Vorrei essere un frate silenzioso che va con i suoi sandali di corda sotto gli archi di un chiostro e attinge acqua all'antica vera del pozzo e disseta le lavande e le rose. Vorrei, dinanzi alla mia cella, avere 4 metri di terra ed ogni sera, al lume delle prime stelle, scavarmi lentamente una fossa, pensando al tramonto dolcissimo in cui verranno, salmodiando, i fratelli e in mezzo ai cespi delle lavande mi coricheranno, ponendomi sul cuore come fiori morti queste mie stanche mani chiuse in croce. E poi, se accadrà che io me ne vada, resterà qualche cosa di me nel mio mondo. Resterà un'esile scia di silenzio in mezzo alle voci, un tenue fiato di bianco in cuore all'azzurro. O vita, perché nel tuo viaggio mi porti ancora? Perché il mio pesante sonno trascini? Io so che le più pure fontane per tutta la terra sfacendosi non renderanno alla neve bruttata il biancore, nell'alba farà con stanca magia rifiorire tra case nere le mimose morte, ma sola al gelo notturno tremerà la fioraia presso il vano donarsi della fontana. O vita, perché non ti pesa questo mio disperato sonno? Non bisogna però pensare ad Antonia come a una musona o una noiosa. Qui è un po' imbronciata, è vero, ma Antonia intuisce la felicità. Gioia di cantare come te, torrente, gioia di ridere, sentendo nella bocca i denti, bianchi come il tuo greto, gioia d'esser nata, soltanto in un mattino di sole, tra le viole di un pascolo, d'aver scordato la notte ed il morso degli acci. E sa giocare anche di ironia. A Napoli, su a San Martino, Museo Nazionale del Risorgimento, insaccato in un vecchio convento, arrivi in uno stanzone appartato dove un omino, il guardiano sembra sempre piccino e poi si allunga e mette la pancia quando gli dai la mancia, ti mostra un carrozzone dorato, soffocato da cordoni velluti e ornamenti, come un capo di furia schiacciato sotto le virgole dei serpenti. L'omino ti fa salire sopra un predellino e tu credi che ci sia soltanto da veder meglio i paramenti interni, valutare la stoffa polverosa, far paragone coi veicoli moderni. Ma quello intanto aspetta che le chiacchiere scipite siano finite e quando ti vede ormai in posa per ridiscendere ti fa sospendere con grave gesto i tuoi gesti spavaldi. Poi, con lentezza solluccherosa, ti scande. Badi le pieghe sul cuscino. Il vocione si fa d'un tratto vocino. Sono ancora le pieghe di Garibaldi. Anche nel museo del mio risorgimento, insaccato in questo vecchio convento, di romanticherie sciroppose, ci sono troppe cose sdolcinate. Sentimentalità insidiose, adorazioni insensate che mi impiastricciano il cammino, che fanno sdrucciolare i miei passi già tanto poco saldi e che mi fanno pensare proprio alle pieghe di Garibaldi, imbalsamate su quel cuscino con estatica idolatria dall'umana idiozia. Antonia ha due amiche carissime, Lucia Bozzi ed Elvira Gandini, che sanno delle sue poesie e che le apprezzano. È importante, perché durante la vita di Antonia sono forse le uniche persone che riconoscono il valore della sua poesia. Antonia viaggia tantissimo nella sua breve vita, specie se si pensa che erano gli anni in cui era normale che il viaggio di nozze fosse da Milano a Bergamo, per esempio. Antonia conosce Roma, Napoli, Venezia, la Liguria, l'Inghilterra, l'Austria, la Germania. In questa foto, eccola, tutta sola sul pennone di una nave da crociera. Assapora una fragile libertà ed è bellissima. Qui è a Venezia. Qui a Berlino. Sì, proprio a Berlino, nel 37. Ecco, un quarto di svastica incollato sul vetro di questa macchina. E poi le montagne, le sue montagne. Cadore, Cervino, Madonna di Campiglio. Effettua escursioni con guide alpine di fama. Qui è con Oliviero De Gaspari sulle Dolomiti. Ma Pasturro, con il profilo della Grigna e i piani circostanti, resta il paesaggio montano per eccellenza. Il padre è podestà, Pasturro. Come poteva Antonia avere amici tra i paesani? Gente semplice. Si sentiva la milanese. C'è un'aria d'abbandono oggi per i campi, un'aria di solitudine festiva che fa più triste la tristezza dell'ora. Ma davanti al cancello del mio giardino un grappolo di bimbi attende il mio ritorno. Per guardarmi bene da vicino, per vedere com'è fatta questa cosa curiosa che sono io. Me li trovo davanti all'improvviso, che mi fissano dritti, senza scomporsi. E di colpo sento che ho io di loro assai più vergogna che non essi di me. Vergogna del mio mazzo di bucaneve troppo semplici, che a loro paiono brutti. Vergogna del mio passo, del mio corpo troppo pesanti, che a me sembrano goffi. Ed ecco, vorrei essere come loro, piccina, povera, oscura, più vicina alla loro piccolezza. E non aver da dire la paroletta benevola che suona male, non aver da sorridere con le labbra dure che si aprono male. Mi rifugio dietro il cancello, come dietro una porta impenetrabile. Ma quando devo infilare la chiave nella toppa e chiudere con armeggio sgarbato, mi sento morire di vergogna davanti ai loro occhi tondi di passeri che mi guardano di là dalle sbarre, davanti alle loro animette di passeri liberi avvezzi ad entrare, ad uscire dagli uscioni sgangherati delle vecchie cascine senza smuovere mai l'enorme catenaccio arrugginito. Questa è la sua villa, come oggi. Questo il giardino e il fossato dietro la casa. Questa è la targa che la ricorda. Pasturo è un rifugio, un luogo in cui Antonia si dedica con uguale intensità alla natura e allo studio. Ecco, si ritirava qui, sedeva a questo tavolo e scriveva. Nella piccola piazza una donna ridente vende le prugne rosse e gialle per la mia ardente sete. Sul gradino di pietra della fontana luccica la lama di una piccozza. L'acqua ghiaccia gela, il riso in bocca a un fanciullo stampa lo stesso riso sulla mia bocca. Questa è la vostra benedizione, montagne. La Regia Università di Milano, negli anni 30, era nell'attuale corso di Porta Romana. Alti finestroni e stemmi retti da creature per metà putti e per metà sirene. Antonia si iscrive alla facoltà di lettere, indirizzo in filologia moderna. È allieva di Antonio Banfi, con cui si laureerà brillantemente con una tesi su Flaubert. I compagni di Ateneo sono un gruppo di giovani che segneranno la cultura del Novecento. Luciano Anceschi, Clelia e Ottavia Abate, Luigi Rognoni, Giancarlo Vigorelli, Alberto Mondadori, Mario Monicelli, Enzo Paci, Vittorio Sereni, Remo Cantoni, Dino Formaggio. Antonia non ci sarà più quando il futuro di speranze dei suoi compagni diventerà realtà. Antonia si ferma prima. Antonia è un ricordo, mentre loro si affannano incontro alla vita. Anche molti di quegli amici di un tempo, oggi, sono un ricordo. Alla fine restano solo le opere. La vita è dispersa per tutti. Eccoli qui. Sono a Pasturro. È l'estate del 35. Quello sulla destra è Banfi. Antonia sembra colta di sorpresa dalla fotografia. È tra Vittorio Sereni e Remo Cantoni. Bello Remo, col sorriso sornione a mezze labbra. Questo è Alberto Mondadori, Enzo Paci, Ottavia e Clelia Abate e in mezzo Isa Buzzone. Qualche settimana prima di scattare questa foto, uno studente di Banfi, Gianluigi Manzi, si era suicidato. Manzi aveva ottenuto la tesi da Banfi sul rapporto Geist und Leben, arte e vita in Thomas Mann. Mi sento ormai come Tonia Kröger, come mi chiamava il povero Manzi. Scrive Antonia a Vittorio Sereni. Tonio Kröger, il personaggio di Mann, costretto dall'arte a una sensibilità che lo priva della capacità di godere della vita, è dunque lo speculare letterario in cui si riconosce Antonia. Arte e vita, Geist und Leben, un binomio in conflitto che né Manzi né Antonia avevano saputo ricomporre. Un binomio in conflitto, come quello tra poesia e prosa, a cui corrispondono sogno e vita pratica, come si percepisce nelle aule universitarie che Antonia frequenta. Si tratta in realtà di un'espressione del razionalismo di Banfi. Difficile che in quell'ambiente il talento poetico di Antonia possa essere capito o apprezzato. Con l'aggravio per lei di essere una donna degli anni 30, una donna troppo intelligente, ma anche troppo ingenua. L'errore di Antonia sta nel cercare il giudizio altrui e il giudizio degli uomini. In una pagina dei diari, il 4 febbraio 1935, scrive, riferendosi a Banfi, «Perché gli ho detto che scrivo degli orribili versi? Ma che diritto ho io di parlare dei miei versi come di qualche cosa che giustifichi la mia inerzia, la mia inattività pratica?» E di seguito, di Enzo Paci che le aveva detto «Scrivi il meno possibile». «Nessuno mi toglie dall'anima il giudizio di Paci. Ma che diritto ho io di credermi qualcuno?» E infine, nella stessa pagina, riporta uno stralcio di dialogo con Remo Cantoni. E Remo oggi. Io penso che tu sei molto intelligente ma molto disordinata. Gli ho detto, del mio disordine mentale non mi importa. E invece mi importa moltissimo. Il più grave è il mio disordine morale. È così. Quando ti buttano giù da un lato, buttarti tu stessa giù da un altro, anche non vero, per il piacere di sentirti, almeno in quello, smentire. Invece Remo non mi ha smentita. E così una cosa a cui nel dirlo non credevo mi è rimasta confermata e ha trovato all'improvviso la sua verità. «Bisogna avere più volontà», mi ha detto. Remo Cantoni. Per lui Antonia torna a provare un sentimento intenso che Remo rifiuta. Qui è nel giardino di Pasturro, durante un soggiorno nel 1935, per riprendersi da una malattia polmonare. Anche Remo scrive. «Mi ha letto due sue novelle. Lui, nel suo modo profondo di essere, di guardare le cose con i suoi occhi buoni. Annota Antonia nei diari. Tentativi di penetrare la realtà triste della vita con una tale onestà, con una tale semplicità sgombra di artifici, che se ne resta commossi. Novelle dunque, non poesia. E qualche mese dopo Antonia gli scrive: vorrei imparare a scrivere in prosa, e con questo intendo tutto un modo nuovo di vedere la vita, più sano e più concreto. Non è detto che poi non debba tornare alla poesia, ma forse sarebbe una poesia più completa, non più soltanto un'evasione, ma una comprensione. Nello stesso tempo, Antonia arriva a definire la poesia non una scelta, ma un destino. In un suo fuoco assorto, ciascuno degli umani ad un'unica vita si abbandona. Ma sul lento, tuo andar di fiume che non trova foce, l'argenteo lume d'infinite vite delle libere stelle ora trema. E se nessuna porta s'apre alla tua fatica, se ridato te ad ogni passo il peso del tuo volto, se è tua questa che è più di un dolore, gioia di continuare sola nel limpido deserto dei tuoi monti, ora accetti d'essere poeta. Un destino solitario e coraggioso. La vita concreta, da cui Antonia teme di essere distaccata, è invece protagonista delle sue fotografie. Non è il mondo dorato dell'alta società milanese che ritrae, no, ma scene semplici e genuine. Bimbi di montagna, un piccolo mercato, i segni dell'operosità, un portalettere, reti stese al sole e la natura, regina della sua poesia. Ma il desiderio di mettersi alla prova con un nuovo genere di scrittura la avvince. Il progetto di un romanzo storico che segua l'evoluzione sociale nella pianura lombarda dal 1870 in poi resterà incompiuto. Eppure doveva diventare per Antonia lo scopo più alto della vita, come confida alla Nena, che, attraverso la sua biografia, le avrebbe fornito la traccia per la composizione. L'idea del romanzo sembra donarle una capacità di reazione eccezionale. In una lettera ad Alba Binda, compagna dall'infanzia: io ho trovato ieri in un cassetto due fotografie di Remo e le ho stracciate. Non in odio a lui, povero diavolo, ma perché tutto il passato ormai mi è inutile. Mi sento come se mi fossero sprofondate alle spalle catene di montagne ed io nasco sulle rive di un lago. E più avanti? Ho ormai chiaro in mente lo schema. Dio, questo non dovrei dirlo, perché chissà quando e come si attuerà. Ma come faccio a non dirtelo, se forse è la molla di tutta la mia serenità, di tutta la mia operosità di ora? Lo schema, dunque, di un grande romanzo che sarà, come nocciolo, la storia della mia nonna, cioè la storia della Lombardia e della nostra pianura. Mi sento così libera, così padrona di me. Posso concedermi il lusso di non chiedermi se un certo signore cambierà o non cambierà ancora a parere, di lasciargli sfogare anzi i suoi entusiasmi, prendendomi con delicatezza tutta la gioia purissima che mi danno e fasciandoli di un certo scetticismo che mi viene dall'esperienza. Scriveva così il 7 luglio 1938, 5 mesi prima di morire. Antonia, così abile nel setacciare ogni minima piega del suo animo, quanto è riuscita a comprendere il suo tempo? Sono gli anni in cui il regime fascista è al potere. Il padre, eccolo in camicia nera, ne è un blando sostenitore, più per convenienza che per convinzione, si direbbe. Ma non vi è accenno negli scritti di Antonia, neppur minimo, agli eventi politici. Antonia non sembra averne condiviso né avversato il fascismo. Tuttavia, mentre nell'Ateneo milanese si accendevano focolai di critica profonda al regime, lei poteva rappresentare agli occhi altrui il conformismo politico a cui la sua famiglia e la sua classe sociale aderivano. Eppure i pozzi frequentano i Treves. Antonia è particolarmente legata a Paolo Treves. E anche Remo Cantoni è ebreo. Quando le leggi razziali costringono i Treves ad espatriare, in una lettera Antonia esprime al grande amico Paolo la sua meraviglia per gli eventi, lo assicura che si recherà al cimitero sulla tomba di Anna Kulishov e poi, virando verso se stessa, ma lo ammette. Oh, pa, non ti ho parlato che di me e di cose per te così lontane. Gli riversa tutto il suo entusiasmo per Dino Formaggio, che da ex operaio sarebbe diventato docente di filosofia dell'arte in varie università. Non ci siamo mai chiesti se siamo innamorati l'uno dell'altro, in quanto ci unisce una solidarietà così vasta, così calma, così infinita, che dire amore, come solitamente si intende, è quasi dire una piccola cosa. Dino attrae Antonia per la legge degli opposti. È figlio di un operaio, operaio lui stesso per diversi anni. Abita in una casa popolare. Studiando alle serali si è diplomato. Insegna già in un liceo di Lodi. E sta per laurearsi anche lui con Banfi. Io sono pazzamente orgogliosa di lui, afferma Antonia. E in una lettera che la madre leggerà solo dopo la morte della figlia. Amiamo perdutamente solo ciò che non avremo mai. E per me è la miseria. Vecchi con lunghi mantelli fra ciminiere di fabbriche lontane, carraie che conducono a una cava di sabbia, bambine col grembiule rosso riflesse dall'acqua dei fossi. La strada vera va lungo un marciapiede, a consuete parole, vetrine infiorate, un punto giallo fra gli specchi, e un mite desiderio di sicuri stipendi. L'amicizia con Dino Formaggio la avvicina ai sobborghi popolari di Milano, al Corvetto, che anche oggi, bagnato di pioggia, porge il suo volto malinconico e desolato. La periferia milanese, nebbiosa e grigia, diventa lo scenario di alcune delle poesie di Antonia che riflettono un nuovo vigore espressivo. Sono poesie che annunciano una stagione lirica più matura, destinata a interrompersi troppo presto. Sento l'antico spasimo, è la terra che sotto coperte di gelo solleva le sue braccia nere. E ho paura dei tuoi passi fangosi, cara vita, che mi cammini a fianco, mi conduci vicino a vecchi dai lunghi mantelli, a ragazzi veloci in groppa opache biciclette, a donne che nello scialle si premono i seni. E già sentiamo, a bordo di betulle spaesate, il fumo dei comignoli morire roseo sui pantani. Nel tramonto le fabbriche incendiate ululano per il cupo avvio dei treni. Ma pezzo muto di carne, io ti seguo e ho paura. Pezzo di carne che la primavera percorre con ridenti e dolori. Lampi di brace nella sera e stridono due sigarette spente in una pozza. Fra lame d'acqua buia non ha echi il tuo ridere rosso, apre misteri di primitiva umanità. Fra poco urlerà la sirena della fabbrica, curvi profili in corsa schiuderanno l'occhio gli orchi nella nebbia. oscure, masse di travi e il peso del silenzio tra case non finite grava con noi sulla fanghiglia ai piedi dell'ultimo fanale. Se ci incontrassimo questa sera, pel viale oppresso di nebbia, si asciugherebbero le pozzanghere intorno al nostro scoglio caldo di terra e la mia guancia sopra le tue vesti sarebbe dolce salvezza della vita. Ma fronti lisce di fanciulle a me rimproverano gli anni. Un albero, solo o accompagno nella tenebra piovosa, e lumi lenti di carri mi fanno temere, temere e chiamare la morte. In via dei 500, a due passi dal Corvetto, in questo bel edificio restaurato, che oggi è una casa di riposo comunale per coniugi, vi erano ospitate le case degli sfrattati, cellette squallide, una in fila all'altra, che Antonia visita con Dino. E la vita e l'amore si innalzano in questi squarci miseri, ma veri. Pesano fra noi due, troppe parole non dette. E la fame non appagata, gli urli dei bimbi non placati, il petto delle mamme tisiche e l'odore, odor di cenci, d'escrementi, di morti, serpeggiante per tetri corridoi. Sono una siepe che geme nel vento, fra me e te, ma fuori due grandi lumi fermi sotto stelle nebbiose dicono larghi sbocchi ed acqua che va alla campagna e ogni lama di luce, ogni chiesa nera sul cielo, ogni passo di povere scarpe sfasciate porta per strade d'aria religiosamente me a te. Mentre il talento di Antonia per la prosa qui è senza dubbi, incalzante, incisiva, assolutamente nostra contemporanea. Casa degli sfrattati, via dei 500, fuori di piazzale Corvetto, il mio piazza Corvetto. Un mese fa, quei carri di ferraglia sullo sfondo delle ciminiere, l'acqua color conchiglia al posto di mare, il fango e le sigarette popolari di Giulio e Dino. A entrare, il primo odore è d'ospedale. Un misto di lisoform e acido fenico, poi di caserma, odore netto di cesso. Poi infine si definisce. Odore di camera mortuaria, dolciastro, appiccicaticcio, invadente. Terrore dei corridoi. Se fossi sola e mi perdessi, piangerei di spavento. Tutti identici, con le pareti di smalto sudicio, ogni 20 metri una latrina, e mezzo file di porte uguali con piccoli numeri di ferro smaltato, come in un albergo di infimo ordine. Ogni porta una famiglia di 5, 8, 10, 12 persone, bambini, a centinaia, a migliaia, frane, a nuvole, ma strani bambini, che quasi non urlano. In mezzo a un corridoio, un mucchietto umano nerastro, una decina di maschietti sui 10 anni seduti in terra, testoni di capelli incolti su colli gracili, camicie e magliette di nessun colore, a buchi. Guardo in mezzo al cerchio, un mazzo di carte luride e mani cattive che le gualciscono, gelose. Prima visita, piano rialzato, numero 28, donna con 6 bambini. Il marito è tornato un mese fa da Garbagnate, guarito, dicono, il che vuol dire pronto e spacciato per morire a casa sua. Ogni 8 giorni va a farsi fare il pneumotorace. Lei ha la pleurite secca e un polmone già intaccato, ma si ostina. Thank you. Antonia Pozzi, nostra contemporanea, si diceva. Sì, e per questo in parte esclusa dal suo tempo. Forse Antonia sarebbe stata perfettamente a suo agio ai giorni nostri. Alta, slanciata, essenziale, sportiva. Gioca a tennis, va in bicicletta, a cavallo, scia, viaggia. E vuole tutto. Marito, figli, lavoro, successo letterario, impegno sociale. Ed è straordinariamente intraprendente in amore. Lo è con Antonio Maria Cervi, con Remo Cantoni e con Dino Formaggio. La sera del 1° dicembre 1938, al conservatorio, danno un concerto. In programma Mozart e Beethoven. Con Antonia vi sono Banfi e un gruppo di amici, tra cui Dino Formaggio. Troppo inquieta, troppo determinata, Antonia lo mette alle strette. Antonia insegue, non si lascia inseguire. Antonia vuole il sì e i no. L'amico non ha che amicizia da darle. Un'amicizia straordinaria, un'affinità spirituale e intellettuale perfette. Ma ad Antonia non basta. Il resto è cronaca. Il 2 dicembre Antonia si allontana dallo Schiaparelli, la scuola presso cui insegna, accusando un malore. Raggiunge la periferia. Arriva a Chiaravalle, ripercorrendo quel tragitto che era stato lo stesso di tante passeggiate in bicicletta con Dino. E poi andiamo in bicicletta alla periferia, lungo i fossi, con le piccole foglie secche come piccole nubi scricchiolanti sotto le ruote. Forse qui, a ridosso di un fosso, o sotto un albero, o nel campo smisurato e ghiaccio tra le zolle sollevate. Qui, sotto il profilo maestoso e indifferente dell'abbazia monumentale, Antonia aspetta la morte, nel gelo del suo ultimo inverno. Non sono i barbiturici ad ucciderla. La diagnosi del policlinico è broncopolmonite acuta. Quando muore, Antonia ha 26 anni. Oh, lasciate, lasciate ch'io mi perda, ombra nell'ombra. Gli occhi, due coppe alzate verso l'ultima luce. Antonia riposa qui, sotto i suoi monti, nella sua pasturro. Riposa qui, sotto due massi della Grigna e la statua del Cristo delle Beatitudini. Queste tre piccole lapidi ricordano Antonia, la madre Lina, il padre Roberto. Dopo la morte della figlia, il padre volle ricordare Antonia in maniera sontuosa. Nella parrocchiale di Pasturro fece dipingere due grandi affreschi che si stagliano i due lati dell'altare. I funerali della Vergine, in cui queste tre figure ritraggono la madre, il padre e Antonia. «Lasciate che i pargoli vengano a me», è il titolo dell'altro dipinto. Siamo convinti che questa figurina in mezzo ai bimbi sia Antonia. L'asilo di Pasturro è intitolato ad Antonia Pozzi. E questa cappellina, che oggi si trova qui, nel cortile dell'asilo, insieme ai giochi dei bambini, segnava, in origine, il punto in cui a Chiaravalle era stata ritrovata Antonia. Un punto che nessuno sa più dov'era. Per troppa vita che ho nel sangue, tremo nel vasto inverno, e all'improvviso, come per una fonte che si scioglie nella steppa, una ferita che nel sonno si riapre, perdutamente nascono pensieri nel deserto castello della notte. Creatura di fiaba, per le mute stanze dove si struggono le lampade, dimenticate, lieve trascorre una parola bianca. Si levano colombe sull'altana, come alla vista del mare. Bontà, tu mi ritorni. Si stempera l'inverno nello sgorgo del mio più puro sangue. Ancora il pianto ha dolcemente nome. Perdono. Lo spettacolo Per troppa vita che ho nel sangue, la breve vita e la grande poesia di Antonia Pozzi, drammaturgia e regia di Anna Ceravolo, con Eleonora Bresciani, Anna Ceravolo, Domitilla Colombo, al violino Francesco Bianchini. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Antonio Orezza e Flavia Mastrella per presentare i loro due spettacoli Bamut e Anelante a Roma, al Teatro Vascello. Bamut dal 7 al 12 gennaio, Anelante dal 14 al 19 gennaio 2025. Ben trovati! Ben trovati! Ciao! Raccontiamo ciao, un ciao. Po' questo. Antonio. Allora, innanzitutto una precisazione doverosa. Questi due appuntamenti vanno raccontati e vanno dalla stampa pubblicizzati, perché se ci si dice sono delle riprese, noi non lo accettiamo, perché sono spettacoli che vanno in scena dopo 20 anni. È un teatro pirandelliano, shakespeariano, che resiste al tempo, perché sentiamo delle resistenze da alcune testate, ce ne abbiamo già parlato. È come non voler parlare di uno Shakespeare fatto da un regista o di uno Shakespeare fatto da un altro regista. Noi facciamo Rizzo Mastrella e li facciamo noi. È come quando uno fa Pirandello più volte, cambiano i registi, si parla sempre di Pirandello, cambiano gli anni, lo spettacolo nostro Bamut resiste al tempo, poi si parla, è doveroso parlare di Bamut, perché è un classico, uno spettacolo classico. Mi sento delle alcune resistenze inconcepibili, noi facciamo un teatro classico che ci resisterà, con la stampa ha il dovere di parlarne, ecco, questa è la mia puntualizzazione. Come nascono la scelta di questi due lavori, nuovo al Vascello, che è un po' il vostro teatro di residenza annuale a Roma? No, sono i lavori più d'attualità, abbiamo deciso questi perché è un bel tempo che noi li facciamo a Roma e soprattutto perché parlano di cose importanti, di cose attuali. Soprattutto perché sono cambiati nel tempo, sono cambiati gli attori, gli interpreti sono altri e cambiano gli segni luce, è un teatro molto estetico. Cambia il ritmo, anche il teatro più bravo. Quindi sono spettacoli sempre nuovi che possono essere visti sotto un'altra ottica, cioè cambia, come diceva, chi è che diceva cambia il tempo ma noi no? Quella cantante, come si dice? Cambia il tempo qua, cambia che noi, se cambiamo noi il tempo no. Quindi è l'opposto di quello che diceva la cantante. Come li presentereste questi due lavori? Tocca a te, Flavio, ci alterniamo. Ah, no, poi. Uno è il lavoro del 2005-2006, parla appunto della situazione di quel periodo, che era una situazione ancora di lotta. E invece Adelante parla dell'attualità, c'è cioè un giotto metaforico, c'è cioè un lavoro corale, e quindi è giusto che si veda di nuovo, perché è uscito nel 2015 e era un po', diciamo, troppo avanti. Adesso è proprio il periodo giusto per vederlo. Consiglio a tutti di vedere e di ridere su quello che sta accadendo. Sì, perché quello che noi prevedevamo, insomma, come sempre, l'errore dell'arte è prevedere, non è descrivere. L'arte che descrive è l'arte dei poveracci. L'errore dell'arte è anche involontariamente prevedere quello che accadrà. E quello che prevedevamo 10 anni fa, è puntualmente avvenuto, insomma. Questo rendere cifra gli incontri tra i cosiddetti grandi della terra, perché sennò per noi sono sempre stati dei pupazzi da quando siamo nati, insomma. Noi siamo nati vedendo gli altri come pupazzi e resistiamo, insomma, a questa visione. Perché come pupazzi, come visione allucinogene. Di pupazzi allucinanti, ecco, quindi cioè, non c'è tempo per se una mente equilibrata, minimamente equilibrata, non c'è tempo per riconoscere l'esistenza del potere dell'istituzione, dello Stato. Non c'è tempo per queste cazzate, insomma. Il potere è solo fonte di ispirazione. Considerati gli anni che sono passati per tutti e due gli spettacoli, come è cambiato il contesto e come è cambiato anche il vostro lavoro nel tempo? Il contesto stenta a mutare, certo, perché siamo vivi noi. Mai sopravvalutare il periodo in cui uno vive solo perché lui è vivo. Appunto, i vivi devono morire perché non fanno altro che enfatizzare il presente rendendolo diverso dal passato. È sempre la stessa cosa, e sta appunto all'arte differenziarsi, non alla realtà. La realtà non potrà mai essere diversa da quello che è. L'arte può rinnovarsi e essere diversa da quello che era. E comunque la realtà supera sempre la fantasia. Nella sua immutabilità, certo, sicuramente. Rispetto al presente, su cosa vi state concentrando in questo momento? Siamo in un spettacolo nuovo. Sì, è ancora, diciamo, un embrione. Non c'è un titolo preciso, c'è un'intenzione, appunto, di raccontare il presente. Però sempre in modo collaterale, legandocene, insomma, della contingenza, ecco. Non siamo costretti ad attingere ai soldi di chi la pensa in modo contrario a quello che pensiamo noi, insomma, come fanno certi scrittori che vanno per la maggiore attraverso la loro menzogna. Beh, noi raccontiamo la sintesi della realtà, quindi senza riferimenti epocali, solo la sintesi ideologica. Non facciamo i soldi con i soldi dei fascisti, questo non l'abbiamo mai fatto, insomma. Ma non perché, cioè, l'Italia è tutta una grande destra, quindi non si sa più dove attingere. Due spettacoli, Bahamut e Anelante, il primo in scena dal 7 al 12 gennaio, il secondo dal 14 al 19 gennaio 2025 a Roma, al Teatro Vascello. Un saluto e un ringraziamento ad Antonio Rezza e Flavia Pastrella, ci vediamo lì. Grazie Federico. E ciao a tutti, anche gli ascoltatori. Ciao. I famosi radioascoltatori. Tutti i radioascoltatori. Ciao. Grazie, ciao. L'autore e attore Spiro Scimone sul spettacolo Il Cortile, in scena a Roma, all'Argo Studio, dal 16 al 19 gennaio 2025. Benvenuto. Grazie, un saluto a tutti. Raccontiamo un po' di questo spettacolo, di cosa si parla. È uno spettacolo che abbiamo messo in scena, debuttato nel 2003, ha vinto il premio UPU nel 2004, ed è uno spettacolo che continuiamo a proporre perché continua a essere molto attuale. Infatti viene richiesto e rappresentato sia in Italia che all'estero. Nel Cortile praticamente ci sono tre personaggi, Peppe, Tano e Uno. Questi tre personaggi vivono in un luogo di rifiuti, quindi sono delle persone che vivono ai margini, degli emarginati, ma queste persone, pur vivendo in queste situazioni estreme, non perdono mai la loro dignità. Ecco, la bellezza di questo spettacolo è che grazie al rapporto umano che si instaura tra i tre, queste persone riescono a vivere anche in situazioni molto difficili. Qual era stata l'origine di questo lavoro? Come tutti i nostri lavori, della compagnia Scimone Sframeli, testi che scrivo io e che vengono rappresentati da me, da Francesco, in questo caso anche da Gianluca, nascono tutti da un'attenta osservazione del quotidiano, della realtà, ma naturalmente poi assumono tutta una valenza teatrale, perché il teatro ci dà la possibilità di andare oltre la realtà. E quindi quest'idea nasce dal bisogno di dar voce agli uomini, alle persone che non riescono purtroppo ad essere ascoltati nella realtà. Noi attraverso il teatro abbiamo questa possibilità, ecco, di dar voce agli emarginati. Ed è molto importante, perché poi è straordinario quando, proprio per questo il teatro è meraviglioso, perché ti dà la possibilità di far ascoltare le voci di persone che spesso nella realtà non vengono ascoltate. Per chi ci ascolta, raccontiamo anche un po' brevemente l'esperienza della vostra compagnia. Sì, la nostra compagnia, la compagnia Scimone Sframeli, nasce esattamente nel 1994 con Nunzio, che è stato il nostro primo lavoro teatrale, lavoro inteso come scrittura, perché è il primo testo che ho scritto io. Ne è stato molto importante questo spettacolo, perché ci ha dato la possibilità di conoscere uno dei grandi maestri del teatro, non solo italiano ma internazionale, Carlo Cecchi. Ha curato lui la regia di questo spettacolo Nunzio, uno spettacolo che ci ha dato tantissime soddisfazioni teatrali, ma anche, devo dire, cinematografiche, perché da questo spettacolo è stato tratto un film dal titolo Due Amici, diretto da me e Francesco. Io e Francesco siamo stati in quel film anche i protagonisti, ed è un film che ci ha dato soddisfazione perché abbiamo vinto il Leone d'Oro come miglior opera prima. E in teatro questo spettacolo con Nunzio continua ad essere circuitato e visto non soltanto in Italia ma anche all'estero, e non soltanto fatto dalla compagnia Scimone Sframeli ma anche messo in scena da compagnie straniere. La caratteristica nostra è anche quella di mantenere tutti i nostri spettacoli in sì. repertorio, dal primo Nunzio fino all'ultimo, che è Amore. Spiro, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi il lupo, grazie, un abbraccio forte anche a voi, a tutti i radioascoltatori, e naturalmente vi aspettiamo a teatro. Certo, ci vediamo a teatro. Ciao, a presto. Grazie, ciao, ciao, ciao. L'autore e attore Spiro Scimone sul spettacolo Il Cortile, in scena a Roma, all'Argo Studio, dal 16 al 19 gennaio 2025. È il momento dell'agenda per gli appuntamenti della settimana, per il teatro e gli eventi culturali più in generale, con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio, ed eccoci qua di nuovo a cercare un po', scandagliare la Roma teatrale e danzeriggia, per capire un po', insomma, dove andare per le nostre serate, o chissà, pomeriggi, quando quei teatri, insomma, saranno le pomeridiane, talvolta la domenica. Ma insomma, si parte questa settimana da Testaccio, dal Cometa Off, perché 14 stasera fino al 19 di gennaio va in scena lo spettacolo 402, come vedete so anche leggere i numeri nel modo giusto, la regia è di Federico Vigorito, in scena ci sono Elettra Zeppi e nostra vecchia conoscenza Gabriele Linari. Si tratta di una sorta di Medea moderna, insomma, a confronto con la violenza e a confronto anche a contrasto, anzi diciamolo tutta, con una cultura maschile egocentrica e patriarcale a tutti gli effetti, usando insomma il termine che oggi maggiormente identifica. Si tratta di un thriller che si svolge dentro una stanza d'albergo, c'è un dialogo tra un senatore della Repubblica indagato per gravi crimini contro l'ambiente e una cameriera che si presenta come una, tra virgolette, diciamolo a tutti gli effetti, donna oggetto che viene vessata ed è sola nella sua vita. Quindi questo per quanto riguarda il teatro della Cometa Off, 14-19 di gennaio. Al Vascello ritorna, e ne parlo adesso, insomma sarebbe ne abbiamo parlato anche l'altra settimana, Antonio Rezzi e Flavia Mastrella tornano in scena con il loro Anelante dopo la settimana di Bahamut. Questa è l'occasione invece per rivedere il loro Anelante È uno spettacolo tra gli ultimi, insomma, della compagnia di Flavia Mastrella e Antonio Rezza, con altri attori come In Bella Vista, Ma non lo muoio. È un non spettacolo, è molto difficile raccontare uno spettacolo di Rezza Mastrella, un'esplosione di umorismo e arte scenica che mette a nudo l'uomo e il bisogno di libertà e l'incapacità poi di ottenerla. Questo di base c'è alle fondamenta di questo lavoro, e quindi genialità di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, ma anche la grande evidenza dei corpi imprigionati e dei corpi liberati. Ecco, una domanda mi viene pensando a tutto questo: libero e liberato sono poi la stessa cosa? Diceva Josip Brodsky che probabilmente no, e faceva in quel bellissimo lavoro che si chiama Dall'esilio una distinzione molto netta, e chissà che appunto troviamo una risposta in questo spettacolo. Teatro Mascello, 14-19 gennaio, per Anelante, Flavia Mastrella e Antonio Rezza. Procediamo, perché al Teatro Parioli Costanzo, che prende il nome insomma dal suo fondatore e direttore per tanti anni Maurizio Costanzo, Massimiliano Bruno insieme a Sara Baccarini, chiedo perdono, presenterà questo Lo Stato delle Cose, seconda parte del lavoro che ha debuttato nel 2023, portando in scena tantissimi attori, nuovi attori, insomma, si tratta di una messa in scena conclusiva anche di un percorso formativo che insomma porta tante storie, tante emozioni, un attraversamento di tanti stati d'animo, quindi insomma il modo anche di andare a vedere tanti nuovi attori e capire quale sarà il futuro, dal 15 al 26 di gennaio al Teatro Parioli con Massimiliano Bruno. Poi al Teatro Andrea Iovinelli, eccolo qua, dal 15 gennaio, quindi da domani, fino al 2 febbraio, ritorna in scena uno spettacolo a cui siamo particolarmente legati, un monologo scritto dal grande autore Mattia Torre, migliore nell'interpretazione dell'attore che ha reso celebre questo monologo, ovvero sia Valerio Mastandrea. Diventano un cult negli anni la storia terribile, ma anche comica, di Alfredo Beaumont, un uomo normale che a seguito di un incidente entra in una crisi profonda e diventa un uomo cattivo. Questo è il lavoro che Mattia Torre ha scritto e diretto, e che Valerio Mastandrea ha così ben interpretato già negli anni passati. Il nostro compianto Mattia Torre, chissà, sarà felice di vederlo nuovamente in scena. 15 gennaio, 2 febbraio al Teatro Ambra Iovinelli. Proseguiamo con Gianluca Riggi, che al Teatro dei Documenti, nostra vecchia conoscenza anche lui, dal 17 al 19 gennaio porterà L'ultimo sorriso di un condannato a morte, con in scena anche Fabio Bisceglie e Valerio Buonanni, oltre appunto al regista e autore Gianluca Riggi. Si tratta di un lavoro che riguarda i tre personaggi, Willy, Luca e Marco, all'interno di uno spazio confinato. Sono all'interno di un giro di giostra, chiamiamolo così. Progressivamente verranno appunto circoscritto, concentrazionario insieme agli spettatori, per vivere un po' quello che è la condizione della reclusione. Il rapporto tra ambiente esterno e ambiente interno viene costantemente riequilibrato nella vita di un condannato a morte. Dal 17 al 19 gennaio al Teatro di Documenti, per questo lavoro molto interessante, quindi segnalo che anche per noi, insomma, per noi del radioteatro può essere interessante. Alla Fortezza Est, 16-18 di gennaio, per andare invece a vedere un'altra storia molto interessante, la storia di un ragazzo gay tra droghe e relazioni violente, che viene indagata nel profondo dell'animo umano. Si tratta di Speed, un flusso di coscienza scritto da Roberto Simonte, e la regia di Paolo Panizza, in scena Masiar Firuzi, che ci racconta di questa storia in una città come Palermo, che nasconde le proprie diversità, ma al tempo stesso le abbraccia, quindi le grandi contraddizioni di certi luoghi, soprattutto della nostra Italia più profonda, dal 16 al 18 di gennaio, alla Fortezza Est con Speed. Invece al Teatro Palladio, un qualcosa di un pochino più leggero, l'amico Vinicio Marchioni porta in scena un viaggio intimo tra ricordi personali, aneddoti, storie legate al vino. Si chiama In Vino Veritas, su scena la musica live di Pino Marino e Alessandro D'Alessandro, seratina leggera, interessante, perché no, 16-17-18 gennaio, Teatro Palladium, alle Carrozzerie Notte, 18-19 gennaio, per questo Cicorea, Amara la danza. Cicoria, fa verso un po' alla cicoria, un po' al grande compositore e jazzista Cicoria, che sa amare la danza appunto con la cicoria. E per l'occasione in scena alle ore 20 ci sarà Francesca Santamaria con il suo solo Good Vibes Only Beta Test, mentre invece alle 21, stiamo parlando scusate del 18 gennaio, seguirà uno Noemi Piva e Sara Chinetti con Mua, un'altra coreografia firmata appunto a quattro mani, appunto sì, che Mua è Camminiamo Insieme, ma non è la mano con l'altra te, questo è quello che ci dice. Poi 19 di gennaio alle ore 20 Vittorio Pagani con uno studio nuovo, una nuova coreografia dal titolo Superstella. Seguirà alle ore 21 un astronascente, sì, perché astro comunque è maschile, però lei è una donna e quindi mi piacerebbe una stella nascente, ecco, abbiamo trovato un termine femminile adeguato. Alle ore 21 Annalisa Limardi con No, la performer e coreografa che in questo periodo insomma si sta segnalando, e questo lavoro No riguarda proprio i confini dell'abuso di genere, quindi quel che dicevo effettivamente quanto mai calzante. 18-19 gennaio per Cicoria alle Carrozzerie Notte, quindi con la danza. Al Teatro Biblioteca Quarticciolo venerdì sera, e quindi del 17, torna in scena uno spettacolo però rivisto, riscritto rispetto a quanto lo abbiamo visto in scena negli anni passati, quindi una sorta di nuovo debutto per Parlami Terra, questo spettacolo firmato da Federica Migliotti e la compagnia Teatro Viola, che nasce da un'immagine, un sogno che parla. È il sogno di Gaia, una ragazzina qualsiasi, che viene risvegliata da un'incomprensibile voce per ritrovarsi su una cassettiera in un non luogo. E c'è una porta magica, insomma, una sorta di Alice nel Paese delle Meraviglie, chissà se queste meraviglie sono veramente meravigliose, un percorso intimo di scoperta di sé, della propria natura, un viaggio di esplorazione da parte di Gaia all'interno di se stessa, quindi negli elementi della natura, appunto, di Madre Terra. Parlami Terra è quello che cerchiamo di chiedere costantemente, perché la condizione ambientale in cui viviamo è terribile, e quindi chissà che uno spettacolo non possa in qualche modo illuminarci la via. 17 gennaio, precisamente alle ore 19, attenzione, al Teatro Biblioteca Quarticciolo. Segue, ultime due segnalazioni, per quanto riguarda il Teatro Argo Studio, 16-19 gennaio, il ritorno a Roma della compagnia Simone Sframedi con uno spettacolo storico, ventennale a dire il vero, tra verità e surrealismo, tra tre uomini bambini in una discarica, un ritmo becchettiano e l'umanità della Sicilia. Premio Ubu 2004 con miglior testo italiano, in scena è Il Cortile, Francesco Sframedi, Spiro Scimone, Gianluca Cesale, la regia è quella di Valerio Binasco. Chi non l'avesse mai visto è assolutamente pregato di farlo, è uno spettacolo fondamentale. Quindi Il Cortile della compagnia Simone Sframedi, 16-19 gennaio, Teatro Argo Studio. Segnalo anche che al Teatro Basilica, dal 16 al 19 di gennaio, torna in scena Diario di un dolore, spettacolo progetto di Francesco Alberici, che è in scena insieme ad Astrid Casali ed è tratto dall'omonimo libro di Lewis e dall'autoritratto di Franz Ecke. Quindi attenzione, perché Diario di un dolore è uno spettacolo interessante e un lavoro che ha a che vedere col dolore e con l'intimità di ciascuno di noi, quindi ecco, ha una profondità notevole. Chi non l'avesse visto lo invito, 16-19 gennaio, Diario di un dolore al Teatro Basilica, e con questo abbiamo concluso. Ciao a tutti! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.